La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Richiamate gli ambasciatori. Qualche giorno fa la Corte d'Assise di Varese ha assolto, perché il fatto non sussiste, due carabinieri e sei poliziotti dall'accusa di omicidio preterintenzionale, abuso di autorità su arrestato, abbandono di incapace e arresto illegale in relazione alla morte di Giuseppe Uva, deceduto la mattina del 14 giugno 2008 all'ospedale Circolo di Varese dopo aver trascorso parte della notte in caserma. Il procuratore di Varese, Daniela Borgonovo, nelle scorse udienze aveva chiesto l'assoluzione, richiesta che è stata accolta. Giuseppe Uva aveva trascorso la notte tra il 13 e il 14 giugno 2008 in alcuni bar di Varese insieme all'amico Alberto Bigiogero. Ubriachi stavano spostando delle transenne per chiudere al traffico una strada, quando furono fermati dai carabinieri e portati in caserma. Nel corso della notte Uva fu trasportato con trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale di Circolo di Varese, dove morì la mattina del 14 giugno. Come Stefano Cucchi, Giuseppe Uva era nelle mani dello Stato, e come loro due era nelle mani dello Stato la ragazza che nella caserma del Quadraro a Roma, arrestata per aver tentato di rubare una maglietta all'OVS, fu stuprata da tre carabinieri e un vigile urbano. Tra gennaio e febbraio di quest'anno al Cairo è stato ucciso Giulio Regeni, una storia che tutti conoscono e ancora aperta. Salta agli occhi la solerzia, la precisione e l'acume con cui la stampa italiana ha smascherato le varie versioni delle fonti egiziane, le comunicazioni dello Stato egiziano, le informazioni che sono state fornite dalla polizia locale. Certo, è difficile credere che Gesù Cristo sia morto di freddo, come dice un noto detto popolare. I segni di tortura sono difficilmente contrabbandabili con gli effetti di un incidente stradale. I nostri acuti politici e giornalisti non ci sono certo cascati. Ma è altresì difficile pensare che Stefano Cucchi o Giuseppe Uva si siano picchiati da soli. E dato che erano nelle mani dello Stato e non c'era nemmeno la possibilità di un incidente stradale, siano morti di freddo. Allora, perché rispetto a quello che succede a casa nostra, giornalisti, magistrati, donne comprese, dato che il procuratore di Varese è una donna e non mi pare che le tendine rosa nella magistratura portino un qualche benefico effetto, diventano improvvisamente così poco intuitivi, così strabiliantemente creduloni e poco critici? Non è che vale lo stesso principio che vale per le lotte di liberazione, per le proteste nelle piazze, per i militanti politici di altri paesi? Vale a dire che se ne parla in maniera positiva, si elogiano e si analizzano positivamente solo se sono altrove o in un altro tempo. Così ci si può fare belli e belle senza sforzo e senza rischio, e si possono pretendere patenti di democraticità e di rigore. L'area della comunicazione sociale è un vero e proprio terreno di scontro. La declinazione e la traduzione delle notizie assume un'importanza enorme. A seconda di come si parla di un evento, questo può essere falsificato, rimosso, sostituito, e i processi di stravolgimento provocano una codificazione fuorviante e fraudolenta. Mentre un tempo esisteva una comunicazione apertamente di parte, ed ognuno, leggendo e ascoltando, inseriva le informazioni nella collocazione che queste rivendicavano, ora i media mainstream e collaterali non sono più di parte, non sono più nemmeno asserviti al sistema di potere, ma ne sono parte integrante. Scelgono sempre e rimano sempre in coro nella direzione che la scala di valori neoliberista esige. Questo processo di integrazione neoliberista è accaduto per tutti i gangli dello Stato, ognuno al suo livello e ognuno per la sua parte e nello svolgimento del suo specifico compito. Per questo non possiamo che rifiutare a tutto campo il carattere allenato della comunicazione e dell'ideologia vincente, perché la posta in gioco è la nostra stessa sopravvivenza come individui e come esseri sociali. Qualche giorno fa si è chiuso il vertice tra italiani e egiziani sul caso Regeni. La collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due paesi può considerarsi di fatto interrotta. Gli inquirenti e gli investigatori italiani si sono detti delusi, non hanno ottenuto quanto richiesto agli omologhi egiziani. La delusione della delegazione italiana che ha preso parte alla 2 giorni di confronto è legata, come emerge anche da un comunicato emesso dalla Procura, dalla mancata consegna, fra l'altro, dei tabulati telefonici di 10 di utenze riconducibili ad altrettanti cittadini egiziani. Inoltre, secondo quanto si apprende, non sono state consegnate anche le richieste relative al traffico di celle, tutti elementi ritenuti indispensabili dalla Procura di Roma. Immediata la reazione del governo italiano. Il ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni, ha disposto il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore al Cairo, Maurizio Massari. In base a tali sviluppi, comunica la Farnesina, si rende necessaria una valutazione urgente delle iniziative da prendere per accertare la verità sull'omicidio di Regeni. E noi, per Giuseppe Uva, per Stefano Cucchi, per la ragazza del Quadraro, per tutti gli altri e le altre che sono morti nelle mani dello Stato, quando richiamiamo gli ambasciatori per prendere iniziative urgenti per accertare la verità? The lights are on, but you're